Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Eccoci qua anche oggi con i Padri Eterni. Un'ora intera per parlare ai padri, per parlare di padri come facciamo ogni settimana. Radio24.it, il nostro sito, da lì poi potrete scaricare il podcast e riascoltare la puntata. Potete contattarci, padrieterni@radio24.it, oppure attraverso la nostra pagina Facebook, i Padri Eterni di Radio 24. Siamo sempre nella nostra formazione standard, io da casa mia, Matteo Bussola da casa sua. Ciao Matteo, buona domenica anche a te. Ciao Fede, buona domenica. Una settimana particolare, soprattutto quella di Matteo Bussola, che è diventato padre di fatto un'altra volta, no? Perché sì, ogni volta che esce un libro per te è un po' no, una nuova paternità, diciamolo. Sì, sì, beh, ma per tutti gli scrittori, penso. Sì, è uscito questo nuovo libro per Einaudi che si chiama L'invenzione di noi due. Ed è una storia d'amore, insomma, una storia sul potere delle parole, sul fatto che siamo tutti fatti di storie e sul fatto che proprio per questo è importante come ci raccontiamo agli altri, ecco. E poi è anche una storia di un matrimonio in crisi. Ci sono dentro pochi figli ma diversi padri e molto imperfetti come piace a noi, insomma. Fantastico. Tra l'altro oggi parlerò molto di libri, ma mi chiedevo questo, Matteo, ma per esempio quando, per chi fa il tuo lavoro o anche il nostro lavoro, comunque l'uscita di un libro è sempre un momento particolare, ma questa attesa, questa tensione, questa festa anche, le tue figlie la sentono? I miei solitamente ignorano proprio serenamente il tutto, no? Io cerco magari anche prima di far vedere la copertina, qualche capitolo, però con fare un po' il tezzoso e distaccato mi dicono sì, vabbè, sono cose tue. Poi magari di nascosto vanno a vedere e so che sfogliano, a volte li leggono anche giustamente. Le tue figlie invece? No, le mie figlie sono esattamente come i tuoi, cioè in linea generale ignorano l'uscita, non capiscono bene, non è una cosa che le riguarda. Questa volta è stato impossibile perché mi hanno spedito a casa 12 colli, cioè 12 scatoloni di libri da firmare uno per uno, e quindi hanno dovuto prenderne atto loro malgrado. Sarà una puntata intensa anche quella di oggi, avremo con noi un paio di autori per raccontare proprio di libri per ragazzi, in questo caso però veramente adatti a una lettura padri e figli. Poi consigli per questa fase, per questi giorni che ci accompagnano verso la fine dell'anno scolastico, per capire come possa comunque essere un momento significativo, anche se in un anno scolastico così diverso e così difficile. E poi come sempre tante storie, la prima delle quali ha veramente animato la rete in questi giorni. Vi facciamo sentire questo audio e capirete di cosa stiamo parlando. Vieni Ale, vai vai. Sì, la sto facendo, vieni. Non dargli la schiena, non dargli la schiena, lui fa i cavoli suoi. Vieni Ale, vieni, vieni, vieni. Mamma! Guarda che il vento. Beh, stai calmo. No! Eh sì, lo avete riconosciuto, Alessandro, il dodicenne che ha avuto un incontro molto, molto particolare, l'incontro con un orso, è successo nel parco della Damello Brenta, sopra le montagne del comune di Spor Minore, e con noi c'è Manuel Brada, che è il papà di Alessandro. Ciao Manuel! Ciao. Buona. Manuel Breda, scusami, ho confuso le vocali. Vabbè, il bello della diretta, grazie, perfetto. Allora Manuel, insomma, Alessandro è diventato protagonista grazie a questo video e appunto a questo incontro così bizzarro, così anche pericoloso, sì, ci viene da dire, sì. Video che è stato ripreso, tu non eri lì in quel momento, ma raccontaci cos'è successo subito dopo. Io non ero lì perché la scena è stata ripresa, come ormai sappiamo, una scena virale che ha avuto una diffusione che ancora ne dobbiamo capacitarci noi genitori, e è stata ripresa dal compagno della mamma. Io ero in un'altra zona, peraltro neanche distante, sempre nel parco del Brenta, in Valle di Tove, dove il telefono, nel momento in cui è avvenuto questa questo episodio, non riceveva il nostro telefono. Quindi arrivati a casa, io e la mia compagna vediamo una marea di messaggi verso le 6 del pomeriggio, dico cosa è successo, mi ha preso il panico e dico cosa è successo, guarda il video, e immaginavo così che potesse essere accaduto un avvistamento di qualche animale da parte di mio figlio, comunque appassionato di natura, ma mai una cosa del genere. La prima volta che abbiamo visto in apnea, non sapevamo cosa pensare, in apnea ce l'abbiamo visto la prima volta. Ma si dice spesso, no, che i ragazzi, si dice spesso, è la verità, i ragazzi e gli adolescenti vivono sempre più virtualmente, è parte del tema anche della puntata di oggi, no, collegati fra chat, sì, app varie, sempre meno realmente. Tuo figlio invece là fuori nel mondo ha incontrato un orso. Ora mi chiedo, sì, questa, sì, cosa è stata vissuta come un evento eccezionale dei suoi compagni? Lo ammirano o lo invidiano per questo? Cos'è successo? L'evento è molto reale, infatti mio figlio adesso si è abituato a questa modalità anche di comunicazione attraverso il web, eccetera. Gioco forza per il periodo che abbiamo attraversato tutti del Covid, per cui lui segue le lezioni online, eccetera. Quindi ha raggiunto sempre maggiore confidenza con questi strumenti, da cui mi è sempre rimasto un po' lontano, perché lui è più attratto evidentemente dalla natura. E un episodio del genere magari lui lo desiderava anche, ovviamente, probabilmente non in questi termini, così da palpitazione, ecco. Tra l'altro ha chiesto lui, no, che venisse girato il video? Sì, è stato veramente eccezionale. Non so se al suo posto avrei chiesto fai il video, no? Mi sarebbero passati tutti altri pensieri. Infatti, ma Manuel, ma immagino che insomma nel vedere le immagini tu anche abbia provato forse un po' di paura sul momento, anche perché un po' sì, cioè la prima volta è talmente forte come emozione che abbiamo dovuto naturalmente rivedere il video la seconda volta per rendersi conto di che cosa si stava trattando, no? Perché all'inizio dici no, uno scherzo, no, è uno scherzo, è realtà, quindi siamo contenti anche per Alessandro, certo, che è comunque un bambino estremamente riservato, e quindi però sta reagendo bene a questa notorietà. No, assolutamente. Tra l'altro, in un'intervista di Nicola Pinna che ha realizzato per la stampa, Alessandro dice che comunque sei stato tu a insegnargli come comportarsi davanti a un orso. Allora, per la verità, poi si deve fare sintesi, no? Nelle interviste, per la verità, è un po' tutta la famiglia che ha trasmesso questa, se vogliamo, attenzione per la natura, però un qualcosa che ha maturato lui veramente autonomamente, perché noi lo lasciamo libero, che non significa che non abbia regole, non abbia impegni, eccetera, anzi, e però ha maturato questo grandissimo amore per la natura, anzi molto, molto più di noi addirittura. Grazie davvero Manuel per questa tua testimonianza, salutaci Alessandro, che ci tenga aggiornato sui prossimi avvistamenti, a questo punto insomma vogliamo saperlo. Grazie davvero, ciao e buona domenica. Grazie. Noi ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Eccoci qua, i Padri Eterni. Insomma, adesso è il momento di tornare al momento che stiamo vivendo, questa fase, la fase che ci accompagna verso le riaperture, ci accompagna anche verso la chiusura della scuola. Lo stiamo dicendo ormai da mesi, no? Matteo, ogni settimana è una settimana nuova, una settimana diversa, anche con i nostri figli, no? Ti accorgi che ci sono dinamiche inattese, domande che sorgono, no? Me ne sono accorto in questi giorni proprio con i miei figli, chi chiedeva di poter andare a giocare a basket, chi di poter andare a prendere una birra con l'amico, e ogni volta c'è la seconda domanda: ma posso farlo? Devo stare attento? Secondo te è rischioso? Davvero ogni azione si accompagna a una serie di quesiti. Sì, ma accade anche con le mie figlie, insomma, no? Adesso che hanno ricominciato a uscire vogliono vedere le amichette, vogliono capire se possono venire a casa, se possono giocare solo in giardino. Insomma, c'è tutto questo riprendersi le misure che riguardano un po' tutte le nostre vite, le nostre routine, ma insomma con le debite precauzioni si può fare tutto. E questo ritorno alla socialità è uno degli oggetti di una campagna molto importante che si chiama Lo Psicologo Ti Aiuta, promossa dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia. E con noi oggi c'è una delle voci protagoniste appunto di questa campagna, che è Silvia Valadè, esperta di psicopatologia dell'età evolutiva e docente a contratto presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. Buona domenica Silvia, grazie per essere qua con noi. Buona domenica, grazie per avermi invitata. Allora, come dicevamo, insomma, un tempo complicato anche da leggere, da interpretare per noi genitori, no? Non eravamo pronti alla chiusura, non lo erano i nostri ragazzi, forse non eravamo neanche pronti all'apertura, no? e quindi voi state cercando di dare un po' di strumenti per affrontarla nel modo migliore. Sì, ci stiamo provando, cercando di, appunto, come ti dicevi giustamente tu, no? Cioè, sono arrivate tantissime comunicazioni inaspettate dal lockdown inizialmente, che ci ha veramente scombussolato e rivoluzionato la nostra anche più semplice idea di quotidiano, e anche, come dicevi sempre giustamente tu, questa fase, dicevate giustamente voi, questa fase 2 con delle riaperture però con dei limiti, insomma. Alcune di queste normative che sono certamente state formulate, ipotizzate, declinate per la nostra salute sono difficili da mantenere per noi adulti, figuriamoci per i bambini, no? Che guardano tra l'altro a noi intendo in questo senso noi genitori più che a noi psicologi, ma come punto di riferimento per riuscire a capire cosa si può fare, cosa non si può fare. E penso anche per essere un po' contenuti, no? Contenuti, che è un verbo che noi psicologi utilizziamo molto, non tanto fisicamente quanto contenuti nel senso di poter fare da appunto contenitore ai loro pensieri, anche ai loro dubbi, alle loro perplessità, forse anche alla loro rabbia e un po' alla loro frustrazione rispetto ad aver passato così tanto tempo chiusi in casa, a poter adesso riuscire, ma con davvero tante limitazioni che diversi di loro faticano a comprendere, soprattutto i più piccoli, perché andare al parco, ma mantenere una distanza, i giochi si possono usare, non si possono usare, gli amici a casa sì, però insomma è complicato. Non so se a voi è capitato anche con i vostri figli, no? Di riuscire a spiegare come mai non si possa toccare il loro amichetto mentre giocano, o perché debbano tenere la mascherina, soprattutto i bambini più piccoli. Credo che la cosa più importante e che come ordine abbiamo cercato di passare come messaggio è che in questo momento noi non possiamo far altro che recepire le indicazioni che ci vengono date, raccontarle ai nostri figli, ai nostri interlocutori, di modo che diventino il più comprensibili possibile. Certo. Anche consapevoli del fatto che alcune cose non sono comprensibili e che quindi dovremmo anche contenere gli aspetti un po' più rabbiosi, anche magari un po' oppositivi, no? Ragionando da padre, no? Ragionando su queste, sì, routine che cambiano, mi viene in mente quest'anno, per esempio, sì, la fine della scuola è tutta diversa, no? Mancherà la recita di fine anno, mancherà il concerto davanti ai genitori. Ora, al di là del fatto che credo che ad alcuni padri e alcune madri forse la cosa non dispiace del tutto, per fare una battuta, no, ma è importante prevedere comunque una forma di, sì, come dire, di festeggiamento, celebrare un momento per confermare il percorso fatto, cioè restano importanti i riti di passaggio. Io sono assolutamente d'accordo con questa visione, perché i riti di passaggio, al di là della parte, no, più o meno divertente, delle recite, dei saggi di fine anno, hanno un valore simbolico importantissimo, che è la chiusura di cicli, che possono essere la chiusura semplicemente tra virgolette dell'anno scolastico, ma per alcuni dei nostri dei bambini prevedono le chiusure di cicli, no? Penso al passaggio dalla scuola materna alle elementari, piuttosto che dalle elementari alle medie, e andato di via dicendo, no? In avanti. Detto ciò, credo che sia proprio necessario da parte dei genitori provare a immaginare dei momenti nei quali si sancisce questo rito, no? Lo si potrà fare a casa o in certa parte forse anche all'esterno, compatibilmente con le misure sanitarie che ancora sono in atto, però è davvero importante non lasciar passare questi momenti come se fossero delle giornate normali, no? Io recentemente parlavo con un'amica e era presente anche la sua bambina, che quest'anno ha iniziato una prima elementare molto particolare e che sta ora finendo una prima elementare in modo molto particolare, no? E nel sentirla parlare a sua figlia gli diceva: guarda tesoro, sforziamoci ancora un po' a fare i compiti, perché comunque settimana prossima finirà la scuola. Quindi c'è proprio un'attesa rispetto alla fine della scuola, come durante i periodi normali, cioè durante, diciamo, gli anni accademici normali. Io credo che sia proprio importante che la giornata della fine della scuola rappresenti un giorno di festa, che si possa festeggiare in casa, si possa festeggiare magari con un amico con tutte le distanze di sicurezza, senza lasciare che questo momento passi un po' in sordina, perché è davvero importante, no, rispettare questi riti di passaggio. Certo. Così come anche sono stati festeggiati tutti i compleanni in questo momento, no? Anche magari su Zoom o altro, no? Perché segnano il passare dell'anno, la conclusione dell'anno scolastico. Sugli sport ovviamente non si potrà concludere molto perché sono stati proprio sospesi. Certo. Però io credo davvero che il rito sia un organizzatore anche, no, della nostra vita, ed è importante dedicargli un tempo di senso, un pensiero di senso. Silvia, un'ultima domanda. La fine della scuola coinciderà anche con la fine delle video lezioni, la fine delle mattinate in Zoom, appunto, con l'intera classe. Diventerà l'occasione questa per cercare di disconnettersi un po'? Credi che sia una necessità, e soprattutto i nostri figli saranno in grado di farlo da un giorno all'altro? Dovremmo un po' accompagnarli in questo, nel senso che c'è sempre stato un grande dibattito anche prima di Covid-19, no? Rispetto a quanto sia corretto, giusto, sano esporre i nostri figli a vari device o ai computer e tutto quanto. Loro tendenzialmente sono molto attratti, no, da questi strumenti, che tra l'altro ci vedono in mano costantemente la maggior parte delle volte. È stata una necessità, c'è stata una necessità imposta da questo particolare momento storico di utilizzarli anche per la didattica online. Io spero e credo che con la fine della necessità di connettersi online per le lezioni si possa piano piano ricominciare a conquistare una dimensione sull'esterno e sulla possibilità di passare, di trascorrere il nostro tempo in maniera diversa, magari un po' più sganciati, ecco, dai mezzi tecnologici. Ringraziamo Silvia Valadè per essere stata qua con noi. Ricordiamo, Lo Psicologo Ti Aiuta, www.lopsicologotiaiuta.it, il sito internet per tutte le informazioni. Ciao Silvia, grazie. Arrivederci, grazie a voi. Noi adesso ci fermiamo, è il momento del meteo e della pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni. Dall'emergenza Covid al sultano Erdogan, dalla guerra in Libia alla crisi siriana, dallo zar Putin ai ribelli di Hong Kong, immigrazione, politica internazionale, economia, conflitti. Ogni giorno ruotiamo il mappamondo e puntiamo il dito, con storie, analisi, con zoom e grandangolo, voci dal campo, analisti internazionali e un pizzico di metallo. Sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto dal lunedì al venerdì alle 16 con Nessun luogo è lontano, naturalmente qui su Radio 24. Padri Eterni. Paranoid. Ancora buona domenica da Federico Taddie e Matteo Bussola, i Padri Eterni, radio24.it, il nostro sito, da lì potrete scaricare il podcast Padri Eterni at radio24.it, se volete iscriversi o tutto ciò lo potete fare anche attraverso la nostra pagina Facebook dove abbiamo appena caricato due copertine di libri, perché insomma tutto il mondo editoriale si è rimesso in moto, tante uscite che erano previste nelle settimane, nei mesi passati, sono state procrastinate, ma adesso finalmente tanti nuovi libri per ragazzi, tanti nuovi libri utili anche per ripensare, riallacciare, riflettere sul rapporto tra padri e figli. Uno di questi si intitola Mira sa tutto, è scritto da un amico dei Padri Eterni, è uno scrittore, uno dei più amati tra gli scrittori per ragazzi, medico e psicoanalista. Diamo il benvenuto a Luigi Ballerini. Ciao Luigi, buona domenica. Oh, eccoci, buona domenica a tutti. Mira sa tutto, edito da Il Castoro, insomma ti sei inventato un mondo parallelo, molto orwelliano anche, no? Dove c'è questa Mira, che è una sorta di assistente virtuale, che ha questo pregio o questo difetto, sa tutto. Quanto c'è, Luigi, di contemporaneo in questo romanzo? Guarda, purtroppo c'è tanto di contemporaneo, ma credo che sia il motivo per cui a me piace tanto leggere e anche scrivere genere distopico, no? Che un tempo chiamavamo fantascienza. In realtà non parla di macchine volanti o alieni, no? Il genere distopico dice, guarda, questa cosa, questo elemento è già presente nella società di oggi, portiamolo all'estremo. Allora, cosa c'è già presente? Quanto noi ci mettiamo in rete, quanto raccontiamo di noi, tutti i dati che volontariamente, no, inseriamo, no, le nostre mail, le nostre foto, i like che mettiamo ai post degli altri, le serie TV che iniziamo a vedere che poi magari smettiamo, ecco, inconsapevolmente raccontiamo di noi, siamo profilati, è tutto controllato, questo accade già. E l'idea che è alla base del libro è: e se ci fosse poi un governo, un potere che decide di organizzare, quindi di farci star comodi ma di manipolare l'uomo, togliere la libertà? Allora certo, di contemporaneo c'è questo nostro bisogno di raccontarci, di esporci in rete, e forse anche una sorta di ingenuità che ci impedisce di capire che stiamo cedendo pezzi importanti di noi, a volte in cambio di niente o davvero, magari, come si diceva un tempo, di un piatto di lenticchie. Luigi, ma cosa rischiamo di perderci in questa continua e ossessiva condivisione come padri e come figli, no? Cioè, perché abbiamo perso o stiamo perdendo la capacità di stare? Abbiamo sempre questo desiderio di un altrove, no? Lo abbiamo visto molto anche in questo periodo particolarmente difficile in cui tutti siamo stati sempre costantemente iperconnessi. Cioè, come possiamo insegnare ai nostri figli semplicemente a stare? Ma guarda, è un'occasione grande, no? Un'occasione grande questa, anche proprio per noi rispetto ai figli e anche per i figli rispetto a noi. C'è un passaggio all'interno del romanzo, adesso non possiamo raccontare troppo, ma Vera, la protagonista, una delle quattro protagoniste, Vera ha un rapporto particolare con suo padre. Soprattutto scopriremo andando avanti al romanzo che il padre non sa chi è la figlia. Ma la figlia non sa chi è il padre, quindi peraltro loro due sono soli, convivono, si raccontano, ma in realtà non si raccontano e non si conoscono ancora. Allora c'è questo paradosso: esponiamo tanto di noi, ma esponiamo forse quello che non serve o quello che vogliamo far vedere, meno la parte più personale, quella più vera, quella più intima. Allora che cosa possiamo fare? Potremmo riniziare a parlarci, potremmo riniziare ad ascoltarci, potremmo riniziare anche ad ammettere, ad esempio, certe fragilità piuttosto che certi, no, certi dubbi, certe questioni personali che ci permettono di conoscerci meglio. Perché davvero io noto questo paradosso: una narrazione continua, ma la narrazione di quello che conta meno, o forse la narrazione non del se vero, ma la narrazione di come vogliamo apparire. Allora, che bella occasione sarebbe se ritornassimo a parlarci, ma soprattutto ad ascoltarci con sincerità e gusto e desiderio anche di raccontarci. Perché sai, noi padri, la solita, come è andata oggi, bene, cosa hai fatto, niente, ma poi anche noi ci raccontiamo poco. Però mi piaceva infatti parlare di una figlia che non conosce questo padre, no? Luisi, in questo c'è, insomma, è un libro sulla libertà, in tutte le sue declinazioni, no? Però adesso hai proprio portato questo esempio delle domande classiche che noi padri facciamo ai figli, anche a volte le domande classiche che i figli fanno a noi padri, no? Dove sono frasi che servono quasi per riempire dei vuoti molte volte, perché si ha paura di questi silenzi. Tu anche sei padre, hai quattro figli, lo abbiamo ricordato più volte. Ecco, quanto uscire da queste solite domande per noi padri può essere utile? O invece i nostri figli hanno bisogno di queste solite domande perché sono comunque una sorta di comfort zone, sono una situazione protetta? Guarda, possono essere delle domande che, no, vanno bene se sono domande che innescano, che attivano, spesso però sono domande che chiudono, perché a volte tradiscono l'idea di un controllo, no? Oppure inducono nei più giovani a pensare, ecco, vuole controllarmi, vuole sapere di me, quando invece a volte può essere un voler sapere di te sincero, perché proprio mi interessa cosa pensi, mi interessa cosa fai, mi interessa le persone con cui stai, che cosa desideri. Ecco, io credo però che forse un aiuto importante per noi padri è quello del iniziare noi a raccontarci, iniziare noi a raccontare, a non diventare padre ingombrante a volte, che sono quelli che fanno sempre tutto, che hanno sempre il punto di correzione, che sanno come vanno le cose. E invece si tratta davvero anche di riprovare a mettersi in gioco, o ovviamente dipende dall'età, no? Ma quanto più crescono, anche far crescere il nostro rapporto. E allora no, non metterci nel piedistallo, a volte ci mettono loro, di quelli che sanno sempre tutto, no? E di fatto non è vero che sappiamo sempre tutto, ma se iniziamo noi a innescare un colloquio sincero, interessato poi quello che ci diranno loro, poi si troveranno coinvolti in un flusso di parola che li faciliterà, e poi si raccontano, perché hanno voglia di raccontarsi, lo vediamo in rete, no? Però facciamo in modo sincero. Ringraziamo Luigi Ballerini, vi ricordiamo allora Mira sa tutto, edito da Il Castoro, un romanzo davvero ben fatto, una lettura che vi consigliamo. La consigliamo da suggerire ai vostri figli, ma vi consigliamo anche di dargli una sbirciatina voi padri, perché anche questo è un modo per conoscere le nuove generazioni e le dinamiche, no, che animano il nostro rapporto con i figli. Complimenti Luigi, grazie davvero e buona domenica. Grazie a tutti voi. Ed eccoci ora con la seconda copertina di questa puntata. Vi abbiamo detto che vi abbiamo presentato due libri molto diversi tra di loro, ma anche con strette connessioni che ci fanno ripensare a questo periodo storico che stiamo vivendo, ma anche al nostro essere genitori. È un piacere avere con noi di nuovo il professore e scrittore Enrico Gagliano. Ciao Enrico, buona domenica. Ciao Fede, ciao Matteo, come state? Stiamo molto bene, ognuno a casa propria, ma come sempre, come sempre qui. Dormi stanotte sul mio cuore, il titolo del tuo nuovo libro. Sì. E c'è la scuola protagonista, ci sono le relazioni protagoniste, c'è la maestra, c'è un Fede che andremo a scoprire chi è. Cosa hai voluto raccontare con questo libro, Enrico? Beh, tu hai parlato di maestra, sì, mi piace raccontare il fatto che i grandi maestri lo rimangono anche dopo che finisce la scuola. La maestra in questo caso si chiama Margherita ed era la maestra elementare della protagonista, la quale va da lei ogni volta in cui si sente un po' sola, un po' persa durante i suoi anni dell'adolescenza, e Margherita, è mia figlia che vuole giocare con me. Direi che siamo in tema con la puntata, vero Puddy? Dicevo che va da lei e gli chiede ma aiutami tu, e lei tira fuori questo quaderno magico, direi che è una sorta di enciclopedia dell'assurdo dove conserva tutte le cose strane del mondo della scienza, le curiosità, e attraverso queste riesce a trovare una risposta ai grandi dubbi di Mia. Enrico, senti, questo tuo libro intanto è un libro di un'intensità pazzesca, nel senso che come tuo solito riesci a scrivere romanzi del tutto trasversali, che piacciono sia agli adolescenti che ai genitori. Ma tornando sulla figura di questa maestra, no? È proprio lei a spiegare a Mia che il cuore di una tartaruga batte 6 volte al minuto, quello di un colibrì 600, no? Quindi che ogni cuore segue il suo tempo. Ti chiedo, da insegnante e da padre, quanto è importante oggi riuscire a trasmettere questo messaggio ai nostri figli e ai vostri studenti, cioè riuscire a far capire che il percorso di ciascuno è diverso e che non importa chi arriva prima? Credo che sia una delle cose più importanti che dobbiamo fare quando siamo lì in classe, ma anche quando lo facciamo da casa con la didattica a distanza. Spiegare e cercare di far arrivare a loro il messaggio che ognuno ha il suo passo. Ti ricordi quella scena dell'attimo fuggente in cui il professore li porta giù in cortile e gli insegna, gli dice camminate al vostro passo, non seguite il passo degli altri, anche perché l'età dei miei, insomma, io insegno alle medie, è proprio l'età in cui si scopre di avere un passo diverso rispetto agli altri, in cui si accorge di essere delle creature che hanno un loro tempo, un loro ritmo. E adesso, visto che ci penso, mi ricorda anche un tuo racconto, Matteo. Nel tuo secondo libro, quando dicevi ho vinto prima io, qual era quello della tua figlia, no? Che sì, quando facevate le corse giù per le scale, diceva ho vinto prima io, e tu volevi correggerla, no? E dirle ma no, non si dice ho vinto prima io, dice sono arrivato prima io, se vinci. E invece poi ti sei accorto che alla fine tutti vincono, l'importante è farlo appunto al proprio tempo, al proprio ritmo. Enrico, ci fermiamo un attimo, un momento delle informazioni per chi sta viaggiando, poi torniamo immediatamente da te. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I fatti raccontati in modo semplice ma senza semplificazioni e spiegati in profondità affinché diventino idee da condividere. Effetto Giorno dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14. Naturalmente qui su Radio 24. Padri Eterni. Eccoci qua ancora i Padri Eterni ed ancora con Enrico Gagliano, insegnante e scrittore, autore di Dormi stanotte sul mio cuore. Enrico, tornando al rapporto tra insegnanti, tra maestri, tra professori e genitori, e soprattutto in questo periodo ci stiamo avviando alla conclusione di questo travagliato anno scolastico, c'è un qualcosa che vorresti dire alle madri, soprattutto a noi padri, sul come avviarci appunto all'ultima campanella? Ma intanto io sento di dover fare un grandissimo grazie, perché la maggior parte, quasi tutti i genitori, insomma, ci sono stati di un aiuto pazzesco in questo periodo, perché per quanto noi ci siamo prodigati per arrivare ai ragazzi, comunque è stata un'impresa e molti genitori ci sono stati vicini. Di sicuro abbiamo visto tutti quanto sia importante per i ragazzi proprio la relazione umana. Fino a 3 mesi fa era tutto uno sparlare del fatto che i ragazzi vivono sui cellulari, vivono sui social, invece adesso ci siamo accorti che non era esattamente così, anzi che senza quella parte lì alcuni, ecco, questa è una cosa un po' che mi è dispiaciuta e che mi fa anche un po' riflettere, hanno toccato un po', sono arrivati a essere un po' abulici, un po'... si sono un po' fermati, ecco, hanno perso l'entusiasmo addirittura, cioè addirittura si parla di hikikomori, no? Sai, quella certo, sorta di pratica che viene dal Giappone. Ecco, questa cosa qua appunto ci dice quanto sia importante al più presto cercare di recuperare proprio la relazione umana. Credo che la scuola adesso debba un po' mettere da parte l'aspetto delle nozioni, delle conoscenze, e più possibile cercare di tenere almeno vivo il rapporto, quello caldo, no? Quello umano. Enrico, senti, tu sei seguitissimo su Facebook e anche su Instagram con la tua rubrica Una parola al giorno. Se dovessi scegliere una parola, una sola, secca, per raccontare questi ultimi mesi. Io l'avevo trovata quasi subito, una parola che non viene usata molto, ma è una delle mie preferite, che è serendipità, perché credo che questi tre mesi siano stati una grandissima deviazione rispetto al nostro percorso. Eravamo tutti dei treni in corsa, no? E poi improvvisamente, tac, il binario ha girato e tutti abbiamo dovuto conoscere paesaggi totalmente nuovi. Credo che la cosa più importante sia che ognuno di noi provi nei limiti del possibile a cercare dentro questa novità qualcosa di inaspettato, qualcosa, ecco, che trovi il bello in questa deviazione. L'America di Colombo, no? Penso che ognuno ha avuto l'occasione per poterla vedere in questo periodo. Mi auguro, insomma, che ciascuno l'abbia potuta trovare. Io sì, come per esempio la cosa della parola al giorno è stata una felice scoperta per me, vedere quante persone avevano bisogno di parole in questo momento, anche di riscoprire la bellezza della lingua italiana. Dormi stanotte sul mio cuore, edito da Garzanti. Ringraziamo e salutiamo Enrico Gagliano. Ciao Enrico, buona domenica. Ciao ragazzi, grazie, che bravo. Ciao Enrico. Vorrei tornare indietro, ma quanti sbagli fra, ho capito che non li ripeto. Il cuore dentro si era fatto qui come la pietra. A 15 anni una promessa che volevo questo e prendermi anche una cometa. Quante notti oscurate, nocche spaccate, note stonate. Quanti dei nostri a fare le cose sbagliate. C'è chi si è perso dietro un muro e chi va avanti per il suo. C'è chi ha la forza tutti i giorni e poi combatte il buio. Io che sto qui a guardare il mondo da più sfumature, lontano da mamma e papà dove sono le cure. Circondato dal disordine, scappato come rondine. Se guardo il mare fra mi sento un vortice. E quando sto lontano, ricordo qualche anno fa, guaglio una mia zana via, una luce in tasta città. E mo che son che migrante e voglio scela guarda, penso che sia stata prima, così tutta vita mia. Quando sono lontano, canta Clementino, e quando sono lontano, insomma, si attiva anche la creatività per essere vicini. L'abbiamo visto in questo periodo di lockdown, tanti genitori, tanti padri si sono inventati la qualsiasi per garantire una sorta di presenza, e che insomma ha usato l'immaginazione dando veramente tanta libertà anche ai propri talenti, come ha fatto un collega di Repubblica. Diamo il benvenuto a Franco Vanni, che ha animato, appunto, ha cercato di accorciare questi 300 chilometri di distanza con la famiglia a suon di video quasi demenziali. Ciao Franco, benvenuto ai Padri Eterni. Ciao, grazie per avermi invitato. Allora, video che tu hai pubblicato sui tuoi social, ma come ti è venuta l'idea? Allora, io faccio giornalista sportivo, quindi ero in trasferta a Razgrad per seguire l'Inter in Bulgaria quando c'è stato il primo caso di coronavirus in Italia a Codogno. Questo ha fatto sì che una volta rientrato in Italia non mi sono più mosso da Milano, mentre mia moglie con mio figlio erano già da qualche giorno in montagna, perché a febbraio era carnevale e insomma mia moglie poi che è incinta al nono mese, ai tempi aveva un po' la pancia un po' più piccola, ma era andata in montagna con Giorgio, con mio figlio, e lì stavano. Dopodiché ci siamo promessi a vicenda, dai, ma ci veniamo a trovare, che non che io ho dovuto lavorare parecchio su queste questioni legate al calcio e al coronavirus, loro aspettavano che ne andassi a prendere e poi è arrivato il lockdown. Quindi siamo rimasti lontani. Io ho visto che con mio figlio, quando gli facevo delle videochiamate, a un certo punto si distraeva. Okay. Ma allora ho cominciato durante le videochiamate a fare delle recitine mettendo dentro tutte le cose che lo fanno ridere, quindi i pupazzetti che avevo in casa e che lui invece non aveva con sé, delle gag legate alle attività di casa che lo divertono, tipo tirare, tipo lavare in giro. E a un certo punto ho capito che anziché fare delle videochiamate avrei potuto fare dei video chiusi, diciamo montati, come fossero dei piccoli cartoni animati dedicati a lui. Ne ho fatti un paio e ho visto che mia moglie mi diceva: guarda, entusiasta, riguarda 20 volte al giorno, mandacene altri, mandacene altri. Allora, per noi è diventata una piccola tradizione il fatto che ogni settimana io gli mandassi questi filmini sempre più elaborati. Alla fine per farli e montarli perdevo anche diverse ore o investivo, secondo me come la si voglia vedere. Però poi mia moglie mi mandava dei video o di risposte in cui vedevo Giorgio che li guardava ed erano talmente carini, io ero talmente contento che l'ho preso proprio come un impegno, cioè oltre agli articoli su quando riparte la Serie A, oltre agli articoli su ecco come si allenano a casa i giocatori, nei miei impegni settimanali, quello a cui forse tenevo di più, anzi senza forse, era fare questi video per Giorgio che sapevo lui avrebbe poi apprezzato anche a grande distanza. Allora Franco, tutti questi video sono caricati sui tuoi profili social, come abbiamo detto, però andiamo ad ascoltare qualche secondo di audio proprio per capire quello che era l'umore che cercavi di trasmettere a tuo figlio Giorgio. Ciao Giorgino, oggi il gatto è andato a fare un giro, così non mi può più fare i dispetti e io sono molto contento perché posso stare tranquillo e stirare questo asciugamano. Ho qua il ferro da stiro, l'unica cosa che devo fare è prendere la presa di corrente e attaccarla, così il ferro da stiro si accende. Mettiamolo subito. E questo era Franco Vanni, appunto, alle prese con questioni domestiche. Franco, quanto è stato difficile questo periodo, cioè, di lontananza da padre, no? Nel senso che poi ci sono anche i padri che hanno vissuto un'esperienza diametralmente opposta alla tua, dunque padri costretti in casa con i figli piccoli, no, per diversi mesi, che ci hanno raccontato di avere vissuto questo periodo come una specie di epifania. Cioè, da cronista, che cosa hai potuto osservare, se hai potuto osservarlo, di questi padri messi di fronte a queste nuove esperienze? E devo dire la verità che quando sentivo il papà, amici che si lamentavano del fatto ah, non riesco a lavorare in casa, se bambini fa un casino, in realtà li invidiavo tantissimo, nel senso che per me non, in realtà è molto bello lavorare con i bimbi, con mio figlio intorno. Anche adesso quando mi avete chiamato stavo scrivendo con mio figlio davanti che attacca gli speaker, se pigiamask, e devo dire che è il miglior compagno di scrivania che io possa immaginare. Poi abbiamo un rapporto abbastanza fisico, nel senso adesso mio figlio ha fatto 3 anni e diciamo che appena mi siedo mi sdraio parto un wrestling in cui cerca di rubarmi gli occhiali, e io ho fatto il contatto con Giorgino, mi è mancato davvero tanto. Capisco però chi ha magari 3 figli, 4 figli e dovuto vivere in casa a strettissimo contatto, che deve aver vissuto una situazione assolutamente nuova, nel senso che l'organizzazione un po' novecentesca, chissà se la recupereremo, della distanza netta a casa ufficio, per cui a casa si dedica gli affetti e in ufficio si lavora, in cui è stata così stravolta da questo periodo di lockdown che per alcuni veramente diciamo l'impatto deve essere stato violento, sia da un punto di vista di intensità di rapporti che di novità di situazioni. Però vissuta invece nell'assenza, diciamo, questa situazione, sono arrivato a sognare il gran casino in casa, i giocattoli in salotto e gli urletti quando non vuole lavarsi i capelli perché gli va lo shampoo negli occhi. Cioè, erano tutte cose che mi mancavano come l'aria. Infatti appena è tornato, insomma, abbiamo ricominciato. Mi siete lavati i capelli subito. Con le nostre cose. Esatto, no, quello Franco... che sono pavido, per cui lo lascio fare a mia moglie perché diventa veramente cattivista. Franco, grazie davvero per questa tua testimonianza e complimenti, perché insomma hai veramente fatto dei video molto molto divertenti e stimolanti anche per noi padri. Ciao, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica, ciao, presto. Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Un grazie come sempre a tutti voi per essere stati in nostra compagnia, un grazie a Danilo Di Trani che con noi ha scritto la puntata, un grazie alle ragazze e ai ragazzi di Radio Immaginaria per il supporto tecnico, radio24.it il nostro sito, da lì potrete scaricare il podcast, lì potrete trovare tutti i contributi extra e attraverso la mail potete contattare la nostra redazione. Ciao Matteo, buona domenica, buona settimana. Ciao Fede, buona settimana anche a te. L'appuntamento come sempre la domenica prossima alle 11 qui su Radio 24. Ciao! Ciao!